Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, accompagna il nostro buongiorno e la nostra buonanotte. Dovrebbe semplificarci la vita, ma quando non c'è ci viene l'ansia e alla fine ci ruba tempo per fare altre cose. Non stiamo parlando di fidanzati, mogli, mariti e compagni, bensì dello smartphone. Una ricerca firmata PhD Italia ci invita a riflettere sul nostro profilo digitale alla ricerca di una risposta alla domanda: nelle nostre vite è tempo di digital detox, di disintossicazione digitale? Anche Web 0.0, il progetto dello street artist Bianco Shock, ci invita a guardare la rete con occhi diversi, a partire dalla vita reale di un paesino di 400 anime in Molise. Focus sui trend dedicato infine ad arte e consumi, dai treni alle case private, passando per le magliette e i negozi, quando l'arte occupa la quotidianità. Buon appetito. Grazie. Aspettate, devo fare una foto, la devo mettere su Instagram per far sapere a tutti cosa sto facendo. Fatemi luce coi telefoni, forza. Così. Da sopra? No, da giù la devi mettere, sono 3 anni che te lo dico. Tu un po' più qui. Ma che maglietta ti sei messo? Ma come fai a metterti una maglietta grigia se la tovaglia è azzurra? Non mi toccare. E adesso che filtro metto? Per colpa vostra con le luci sbagliate, l'arc? O giuno? La prossima volta vuol dire che chiamiamo il ristorante e ci facciamo dire che colore sono le tovaglie, così non rompi. Il video, lo trovate sulla nostra pagina Facebook, racconta i profili digitali degli italiani tratteggiati nella ricerca Disconnect to Reconnect dell'agenzia media e di comunicazione PhD Italia. Consapevoli, entusiasti, funzionali e nostalgici, questi i 4 profili tratteggiati in base al diverso approccio alla tecnologia attraverso situazioni tipo della nostra quotidianità. Una ricerca che racconta abitudini e manie della società della connessione, dove la modalità on è la routine e a fare la differenza può essere la digital detox. Se per alcuni infatti la disconnessione è una provocazione, per altri sta diventando una necessità. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. Iperconnessione e overload di contenuti digitali iniziano a generare insofferenza. Il tema sta diventando mainstream, come si dice in gergo, lo testimonia, lo sentite in sottofondo, il tormentone della prossima estate, polemica Fedez Salvini a parte ovviamente. Ecco qualche numero. Smartphone dipendenti, social media addicted e tecnoentusiasti, ma anche convinti del fatto che la tecnologia rischia di farci perdere il gusto delle cose semplici, mette in pericolo la nostra privacy e ci ha reso persone più sole. Questa la fotografia degli italiani e del loro rapporto con la tecnologia scattata da PhD Italia. Per quasi 5 italiani su 10, la checking habit, l'abitudine di controllare il cellulare per verificare l'arrivo di nuove mail, notifiche o messaggi, è il primo gesto del risveglio, e quando si tratta di 18-24 anni, la percentuale sale al 75%. Per quasi 7 giovanissimi su 10, inoltre, il controllo del telefonino corrisponde anche all'ultima cosa che si fa prima di dormire. Forte della sua diffusione, 1 miliardo di utenti attivi nel mondo, l'applicazione più utilizzata in Italia è WhatsApp, seguita da Facebook e YouTube. Il 49% degli italiani considera lo smartphone un oggetto che semplifica la vita. Il 28% dichiara di controllarlo ogni volta che arriva una notifica. Il 29% si dice infastidito all'idea di essere disconnesso per qualche ora. E il 47% degli intervistati dichiara di controllare che ci sia la connessione Wi-Fi quando prenota un hotel. L'idea di una vacanza isolati dalla rete raccoglie il consenso di oltre 3 italiani su 10. Per il 17% si tratterebbe di un paradiso, contro il 10% che lo vivrebbe come un incubo. E se per il 5% degli intervistati la vacanza internet free è già un'abitudine, il 41% concorda con chi decide di spegnere il cellulare per disintossicarsi. A fare la differenza è sempre meno l'età. Le differenze tra generazioni nell'utilizzo della tecnologia vanno assottigliandosi. Questo cambia totalmente il modo di fare comunicazione e distribuire i contenuti, ci dice Vittorio Bucci, Managing Director di PHD Italia. Siamo talmente immersi in questa realtà che difficilmente riusciamo a percepire i confini stessi, le sfumature, le diversità della nostra vita fuori e dentro la rete. Sono delle sfumature che cambiano radicalmente il modo in cui consumiamo, il modo in cui consumiamo contenuti, prodotti, il modo in cui interagiamo con le persone, con i brand, e ci sembrava giusto fotografare l'evoluzione di questi comportamenti e soprattutto cercare di capire quanto poi effettivamente le variazioni all'interno di universi che siamo riusciti a codificare in modo molto diverso tra di loro ci permettessero di migliorare quello che è il nostro lavoro, definire strategie di comunicazione sulla base di variabili che sono sempre più lontane dal vecchio approccio standardizzato alla caratterizzazione dei target. Il rischio più grande oggi in questo marasma di dati che la rete ci mette a disposizione è quello di non riuscire a caratterizzare quello che è realmente rilevante per le aziende, per i nostri clienti. E siccome la chiave della giusta, della sana distribuzione di un contenuto è esattamente la rilevanza, la coerenza con quelli che sono i valori dei consumatori, delle persone, in realtà allora diventa tanto più importante andare ad indagare, a dettagliare quello che il mondo di dati sui brand ci mette a disposizione. Prendete un paesino di 400 abitanti, per lo più anziani, in Molise, dove i telefonini prendono poco e la connessione stenta ad arrivare. WhatsApp è la cabina del telefono, WeTransfer il furgoncino Ape, Tinder la panchina del paese. Questa è la provocazione dello street artist Bianco Shock, che a Civita Campomarano, questo il nome del paese, ha messo in scena il suo web 0.0. Se non vi è già capitato di vederlo perché è subito diventato virale, andate subito a cliccare il video sulla nostra pagina Facebook perché merita veramente. Noi dall'artista ci siamo fatti raccontare questa sorta di internet della vita vera. Questo progetto è nato grazie alla partecipazione a questo piccolo festival che è stato fatto appunto in questo comune che è Civita Campomarano. Quando sono stato invitato ho chiesto ovviamente quali fossero le particolarità, no, di questo posto. E subito era venuto fuori questa assenza di internet, che è stata una cosa che mi ha ispirato a ragionare un attimino su che cosa potesse significare oggi nel 2016 non avere internet. La tua è una sorta di provocazione che invita a cercare non solo online la risposta alle esigenze di comunicazione e di condivisione, è così? Sì, assolutamente, perché diciamo che il ragionamento che sta dietro a quel lavoro, che ovviamente ha un impatto visivo molto immediato e anche molto ironico, no? Se vuoi, nasconde dietro proprio questa domanda che ci si può porre, nel senso, anche prima che ci fossero tutte queste strumenti virtuali, applicazioni, tools di internet, eccetera, eccetera, queste forme di relazione sono sempre esistite anche nel reale, no? E sembra quasi che oggi siano andate un po' perse. Per definire la tua arte, tu parli di effimerismo, ce lo vuoi spiegare? Diciamo che questa definizione nasce da una sorta di provocazione, nel senso che comunque la tipologia di arte che faccio io è più correlata, diciamo, a una forma di attivismo urbano, perché mi esprimo principalmente appunto attraverso dei progetti che sono poi delle installazioni urbane che vengono create spontaneamente in strada per un pubblico, diciamo, eterogeneo, quindi non necessariamente del canale artistico. La parola effimero è sicuramente la caratteristica che accomuna tutti le centinaia di interventi che ho fatto, perché comunque diciamo che nello spazio reale fisico durano da pochi minuti a qualche giorno al massimo, perché comunque sono quasi sempre installate in strada, appunto in modo naturale, senza particolari permessi, quindi diciamo che sono effimeri. Poi dall'altra parte diciamo che comunque sono opere d'arte, quindi attraverso la fotografia, i video, le mostre, le pubblicazioni, internet, soprattutto rimangono comunque tra virgolette eterne, ecco, come documentazione. Continuiamo a parlare con Bianco Shock tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Cuore e Denari presenta Un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e denari, di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportaggi, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, stiamo raccontando Web 0.0, l'installazione dello street artist Bianco Shock, che ci aiuta a guardare il web e la socialità con occhi diversi. Diciamo che il lavoro ha avuto un particolare successo soprattutto grazie, diciamo, alla partecipazione sia degli organizzatori, che mi hanno messo ovviamente nelle condizioni di lavorare in quel modo, sia soprattutto anche degli abitanti. Le persone si sono subito avvicinate e poi da lì ovviamente si sono anche interessati al mio lavoro e abbiamo cercato di spiegare bene che cosa fossero questi strumenti. Insieme li abbiamo tradotti, diciamo, nella quotidianità, insomma, del loro vissuto. Ecco. Focus sui trend. Ed è dedicato all'arte il focus sui trend di questa settimana, alle contaminazioni tra arte e consumi, in uno scenario in cui l'arte cerca e trova sempre di più spazi di espressione e di fruizione al di fuori dei musei e delle gallerie, con modalità tutte nuove, sempre più vicine alle nostre esperienze quotidiane. Ne parliamo con Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, il primo caso che hai selezionato ci porta in Francia, se non sbaglio. Sì, certo. È stata realizzata una partnership tra il servizio ferroviario francese e un'azienda, la 3M, che ha portato alcuni capolavori dell'arte, dell'architettura e del cinema francese direttamente all'interno dei treni. Quindi, negli spostamenti quotidiani, i pendolari saranno circondati da pellicole che riproducono alcune opere e ricoprono i soffitti, le pareti laterali, con un effetto scenografico davvero suggestivo. Per esempio, in una carrozza è stata ricreata la Reggia di Versailles e in un'altra le ninfe blu di Monet ricoprono gli interni del vagone. Tutte le immagini, come sempre, sulla nostra pagina Facebook. Lo hai ricordato, non si tratta di poster o di riproduzioni appese alle pareti, ma delle pellicole che ricreano l'opera d'arte a 360 gradi, in modo immersivo praticamente, Luisa. Sì, certo, è proprio quella la cosa interessante, l'emozione all'interno, come hai anticipato tu, della propria quotidianità, di un momento comunque quasi rituale nostro. Dai treni e dei pendolari alle case private, che diventano gallerie d'arte, succede a Boston. Infatti, in questo caso parliamo di una startup il cui mantra è: l'arte ha bisogno di spazio e lo spazio ha bisogno dell'arte, e quindi nasce con l'obiettivo di avvicinare i proprietari immobili e artisti locali indipendenti, rendendo le pareti degli spazi privati vere e proprie gallerie d'arte. Quindi si rivolge a, per esempio, gli host di Airbnb, ma anche a hotel o boutique. Tecuma, questo è il nome di questa startup, seleziona dal proprio gruppo di artisti le opere che meglio si adattano all'immagine delle pareti delle case ricevute nel loro sito. Le opere scelte vengono poi installate nelle case o negli alberghi e i clienti che frequenteranno questi spazi potranno, tramite un QR code, accedere sia alla descrizione che eventualmente acquistarle. Il prossimo caso ci porta invece in Italia, un bellissimo progetto che ci parla di arte e moda. Esattamente, è un progetto intitolato Art of Italy di OVS, che ha lanciato una collezione di abbigliamento e accessori in edizione limitata, che rende omaggio all'arte italiana. Quindi sono riprodotti su abiti, accessori, pezzi di arte italiana poco conosciute ma di grande fascino. Per esempio, i mosaici della Casa Romana di Spoleto sono stampati su camicie e scarpe di tela. Molto importante il sostegno in questo caso alla campagna di comunicazione di personaggi celebri, tra cui Giovanni Allevi, Marta Ferri, Silvio Muccini, Margaret Madè, che si sono fatti ritrarre sullo sfondo, per esempio, degli spettacolari mosaici italiani. Tutto l'utile della vendita generato, quindi, sarà devoluto per finanziare il restauro di capolavori dell'arte italiana fuori dai circuiti tradizionali. Quindi anche una riflessione su una nuova forma di mecenatismo da parte delle aziende che incrocia anche il prodotto, questa comunque la novità. Luisa, abbiamo parlato di treni, case e capi d'abbigliamento come nuovi luoghi di espressione e di comunicazione per l'arte, non potevamo tralasciare i negozi, il retail guarda con attenzione a queste contaminazioni, quale casa hai scelto? Non potevo non citarvi l'apertura, cioè la riapertura ovviamente perché esiste già da molto tempo, del Dover Street Market, che ha cambiato pelle, si è spostato nella, diciamo, casa tradizionale di Barbaris, sempre a Londra. Diciamo che moda, arte e design ormai da anni si incontrano proprio all'interno di questo spazio di retail grazie all'attività della stilista giapponese Rai Kawakubo, che era la creatrice delle collezioni di Comme des Garçons e proprio la fondatrice di questo storico negozio. Cosa è cambiato? Che all'interno dei 5 piani sono stati ricreati 5 diversi ambienti che hanno tutti uno stesso tema conduttore del beautiful chaos, quindi questo bel caos creativo, e arricchiti anche da installazioni vere e proprie di luci e suoni, ma la cosa interessante è che i designer delle diverse marche presenti hanno poi decorato e allestito tutti gli spazi esprimendo al massimo il loro esso creativo per creare un caos meraviglioso. È stata definita una galleria d'arte della moda, proprio ad includere entrambi gli aspetti. Esattamente, qui davvero vedi come la contaminazione tra abbigliamento piuttosto che design e vita quotidiana sia davvero fortissimo. Questa discesa in strada, chiamiamola così, dell'arte non è esente da critiche, è una tendenza che fa comunque discutere, Luisa, anche la street art in questo momento è al centro di polemiche molto accese. Allora, come avevi anticipato, certamente da un lato c'è questo desiderio di una pervasività nella vita quotidiana del senso del bello, e l'arte si muove in questo senso verso nuovi spazi dove vivere, in aggiunta a quelli tradizionali, quindi ovviamente anche all'interno della vita delle persone. Ed è proprio la cultura materiale che se ne giova, creando queste nuove logiche di consumo che abbiamo esemplificato con questi esempi precedenti. Certamente il confine tra il desiderio di una creazione artistica completamente indipendente da queste dinamiche e invece l'appropriazione dell'arte in questi nuovi termini determina discussioni che sono solo all'inizio, logicamente. Non posso non citare in conclusione la polemica iniziata dal grande artista street art Blue a proposito, per esempio, della mostra dedicata a Banksy e alla street art di Bologna. Il concetto, il clou, insomma, della polemica è dove finisce, quali sono i confini della street art, verrebbe da dire la strada, con l'esposizione di questa mostra non è stato così, insomma, comunque la si pensi, l'importante è la valorizzazione dell'arte stessa, non trovi, Luisa? Sì, esattamente, il fatto che sempre più persone dal mio punto di vista possano in qualche modo farla rientrare all'interno della propria vita, penso anche al ruolo anche della street art nei confronti dei ragazzi più giovani, così forte, sia importantissimo. E quindi certamente è giusto lavorare alla ricerca di nuovi confini, però con grande apertura, ecco, mi verrebbe da dire, perché comunque l'arte e il bello migliorano la vita delle persone sicuramente. Grazie a Luisa Schiera, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, a questo punto, il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa e a tutti gli ascoltatori. Settimana scorsa siamo partiti dai giovanissimi, questa sera me lo hai anticipato, ribaltiamo l'approccio. Sì, ribaltiamo l'approccio, parliamo di super adulti anche per reagire, non in modo critico, ma in modo costruttivo, all'ultimo libro di Zagrebelsky, che si chiama invece Senza adulti. Zagrebelsky giustamente indica un problema, che è quello del volersi sentire giovani fino a 50 o addirittura 60 anni, che sappiamo ha caratterizzato almeno gli ultimi 40 anni della nostra società. Io ribalto questa visione, pur considerandola corretta, e verifico che c'è anche un altro problema, e cioè che ci sono ragazzi e giovani che non si riconoscono più nell'età che hanno, vorrebbero essere loro più grandi. Ecco, allora i superadulti possono essere i nonni e longevi, che danno comunque la loro visione del mondo partendo da un'esperienza molto lunga che i giovani tra l'altro sono interessati a conoscere. Quando a dividere l'età, quali sono gli errori da non fare, Francesco? Ma allora un errore da non fare è simulare ciò che non si è. Noi viviamo in un'epoca in cui paradossalmente nessuno sembra essere a proprio agio con la propria età, no? Quindi chi appunto ha più anni cerca di dimostrarne meno, chi ne ha meno cerca di dimostrarne di più, anche perché ha a disposizione strumenti che in passato non esistevano. È molto importante, attraverso l'esperienza, attraverso anche la convivialità, e credo che su questo c'è un mondo, per esempio pubblicitario, che comincia a capirlo, no? Mi viene in mente, mi fa piacere citarla, ricordarla e segnalarla anche sulla nostra pagina Facebook, la campagna di questi giorni di Burger King sui social, King of Umarels. Gli Umarel sono i pensionati che amano guardare i cantieri e dare consigli agli operai nei cantieri, e Burger King ha sfruttato questa narrazione per parlare dei suoi cantieri, dei nuovi punti vendita che si appresta ad aprire in tutta Italia. E questo è interessante, perché i ponti emozionali tra le generazioni saranno, io credo, la risposta. Ci sono generazioni e soggetti che hanno grandi patrimoni che non vengono raccontati, e allora in modo anche ironico si possono, credo, recuperare comportamenti per accompagnare anche i ragazzi a comprendere meglio il mondo. Ecco, su questo la saggezza credo che ancora abbia una sua centralità. Quindi da necessità ad opportunità, ancora una volta, per chi la sa ben sfruttare. E anche avere nelle aziende soggetti di diverse età che lavorano sugli stessi progetti. Grazie a Francesco Morace, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.